Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria è un'altra giornata di bilanci trimestrali dei principali gruppi italiani, non solo Vodafone a livello europeo, ma anche Vodafone Italia, ma anche Intesa San Paolo, Unicredit, Saras, Terna e altre trimestrali. Va detto che sul fronte di Banca Intesa, Intesa San Paolo, l'utile 9 mesi è calato, ma è migliorato negli ultimi 3 mesi, per cui c'è una tendenza anche delle banche, nei colossi bancari italiani, scusatemi, ad avere un miglioramento degli utili. Un anno fa erano sotto osservazione, si temeva che non tenesse il sistema bancario e finanziario mondiale, adesso sono già in utile e tra l'altro con un netto miglioramento. Utile che anche per Banca Intesa arriva dall'attività di trading, di investimento sui mercati. Di questo parleremo nella seconda ora, cercando di tracciare un bilancio di questo fenomeno che prima americano, poi europeo, adesso anche italiano, vede le banche tornare, diciamo, e questo ci fa piacere, a registrare bilanci positivi a nemmeno un anno dallo scoppio della crisi finanziaria. Ancora, per quello che riguarda Saras, invece i ricavi sono calati del 46%, l'utile del 78%. La società che appartiene alla famiglia Moratti ha chiuso i primi 9 mesi del 2009 con infatti un utile in calo a 67 milioni e mezzo di euro, meno 78%. I ricavi in calo del 46% a 3 miliardi e 750 milioni. Poi parleremo in apertura dei dati Istat oggi sulla produzione industriale e di un'iniziativa che il Sole 24 Ore ha preso, un vero e proprio manuale di navigazione per le piccole imprese, andando a dare, come un manuale dovrebbe essere, suggerimenti molto concreti, consigli molto concreti, informazioni diciamo di orientamento per le piccole imprese, che sono in questo momento quelle più in difficoltà e più fragili nell'affrontare questa crisi. Parleremo dei dati sulla produzione industriale, perché sono particolarmente brutti nel mese di settembre, il dato peggiore dal 1990. E parliamo di mese su mese, eh? E anche la Confesercenti annuncia 100.000 aziende del commercio già chiuse, e avremo ospite anche il direttore finanziario di Vodafone Italia per i conti di Vodafone e per tornare anche su un tema che ci sta molto a cuore in questo periodo: la banda larga, 50.000 posti di lavoro che si potrebbero creare con l'investimento che è stato congelato dal CIPE, dal governo, 800 milioni di euro, e 33.000 aziende coinvolte. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve, partendo dalla borsa. Borsa che oggi corregge dopo il rialzo di ieri, ma poca cosa, meno 0,3% il FTSE MIB, Parigi invariata, Francoforte meno 0,1% come Londra, l'America perde anch'essa lo 0,1%, da segnalare particolarmente pesante oggi Prismian, meno 8,5%, Geox meno 4,70%, Pirelli meno 3,20%, ST Microelectronics meno 2,5% come in pregilo, Finmeccanica meno 2,2% come la Popolare di Milano, il 2% lo perde invece Buzzi, Unicem, Telecom meno 1,6% e Eni meno 1,2%. Fronte opposto, guadagna A2A l'1,7%, Parmalat l'1,6%, 1,5% il rialzo di Intesa, l'1,3% quello del Banco Popolare di Terna, l'1,2% quello di Bulgari, l'1% il rialzo di Enel, Snam, Rete Gas, Fiat invariata. L'euro a quota 1,4942, quindi sempre su livelli di estrema forza, 1,50, vicino a quota 1,50. Per quello che riguarda altri mercati, parliamo del petrolio che oggi resta a 80 dollari al barile a New York, un rialzo di quasi un dollaro, mentre dopo i tagli operati dall'AGIP, qui parliamo di benzina, quasi tutte le altre compagnie hanno ridotto i prezzi di benzina e diesel. La verde dovrebbe essere a questo punto in media a 1,318 euro, il gasolio a 1,154 euro. Per domani però, appunto, visto i prezzi del petrolio, la tendenza purtroppo è destinata a esaurirsi. sempre a livello di record l'oro, poco mosso, ma insomma sopra 1102 dollari all'once nei mercati asiatici. Invece interessante quello che sta capitando sulla vicenda Opel General Motors. Perché? Perché Magna, uno dei tre soggetti del consorzio appunto russo, canadese, austriaco, Magna Sberbank, ha chiesto a General Motors un rimborso, quasi una penale, insomma, da 100 milioni di euro dopo che General Motors ha deciso di abbandonare il progetto di vendere il 55% di Opel appunto al consorzio Magna Sberbank. E anche Sberbank, cioè la banca, il gruppo finanziario russo, ha avviato un'azione legale contro General Motors. Bene l'andamento di Vodafone a livello europeo, di Vodafone Italia, ripeto, ne parleremo più avanti. Comunque l'utile netto raddoppia e i ricavi salgono del 9%. Altra notizia, cui parleremo alle 18, risanamento, il tribunale ha respinto l'istanza di fallimento e quindi ha di fatto omologato gli accordi di ristrutturazione del debito della società. Che cosa vuol dire questo? Che le banche possono andare avanti nel loro piano di salvataggio, di risanamento. Infatti la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha giudicato gli accordi di ristrutturazione del debito tali da superare lo stato di eventuale insolvenza. Risanamento, per chi non se lo ricordasse, è la società che apparteneva a uno degli ultimi immobiliaristi di quella stagione, appunto, che andò sotto il nome degli immobiliaristi Luigi Zunino, ma che vedeva una fortissima esposizione di alcune banche italiane che avevano prestato questi soldi a Zunino. Le aree interessate sono l'ex area Falck, l'area di Santa Giulia a Milano. Comunque, ancora coi dati di Saras abbiamo già detto, d'intesa diremo più avanti. Terna oggi ha dato i dati sui primi 9 mesi dell'anno. Terna, ossia il gestore della rete elettrica italiana, ha visto l'utile netto arrivare a 320 milioni di euro, più 13% rispetto a un anno fa, ai primi 9 mesi di un anno fa, e anche i ricavi fanno un più 12%. Praticamente il CDA, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un anticipo sul dividendo, quindi sulla distribuzione dell'utile agli azionisti, pari a 7 centesimi di euro per azione. Cambiamo tema, il ministro Tremonti chiarissimo da Bruxelles, dove si è tenuto il vertice Ecofin oggi e ieri, il vertice Eurogruppo, sulle pensioni. Finché ci sarò io non si taglierà l'età pensionabile, cioè se la parola è tagli non avremo taglia alle pensioni, scusatemi, non all'età pensionabile. Ma voleva anche dire Tremonti, nessuna riforma, tagli non ve ne saranno, il sistema previdenziale resta così com'è, nessun intervento sulle pensioni, così come secondo Tremonti non serve alcun intervento sui conti pubblici, quindi nessuna nuova manovra. Per essere chiari, in modo da evitare equivoci, non dobbiamo fare manovre, dobbiamo confermare la finanziaria che c'è. Domani lo vediamo, abbiamo visto la bozza naturalmente, come tutti i paesi hanno avuto più o meno la bozza. Noi siamo convinti, e ci pare la Commissione sia convinta del fatto, che la finanziaria triennale integra pienamente gli obiettivi assegnati per il rientro all'Italia. Dobbiamo mantenere la finanziaria, non dobbiamo fare qualcosa in più, non possiamo fare qualcosa in meno. Ecco, il riferimento del ministro Tremonti era appunto a quanto si è appreso ieri, lo abbiamo raccontato in diretta durante il programma, ossia la raccomandazione che verrà formalizzata domani dalla Commissione Europea all'Italia di riportare il deficit sotto il 3% nel 2012. Avete già ascoltato un accenno, ha detto Tremonti che ha visto la bozza, ma comunque in questa bozza non verrebbe chiesta una manovra aggiuntiva, ancora più esplicito sul fatto che diciamo, a ogni paese viene raccomandata una medicina. Io la vedo un po' così, tutti devono prendere una medicina, a noi è stata data la possibilità di prenderla, di andare a curarci per primi, ma di prenderla in minime dosi. E questo schema 2010, 11 e 12 è nel nostro DPF, è nella finanziaria stabilizzata su 3 anni, quest'anno è spostato un anno in più, che è esattamente il 2012. Quindi noi stiamo in quella linea. La valutazione è stata oggettivamente molto positiva, cioè non è nelle nostre sorti usuali avere approvato il documento programmatico e averlo approvato con considerazioni così positive come vedrete nei prossimi giorni. La medicina la devono prendere più o meno tutti, e avere la possibilità di andare a curarsi prima, è meglio prima o dopo? Barare la casella è meglio prima, visto che deve curare. È meglio prendere dosi molto forti e anche potenzialmente negative e distruttive, oppure prendere dosi abbastanza limitate e contenute? Questa è la visione del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Per quello che riguarda invece i dati oggi inerenti all'economia italiana, già anticipavamo quello sulla produzione industriale, e allora lì, fermo restando che a settembre, però il dato è particolarmente pesante su agosto, cioè se si guarda la produzione industriale italiana rispetto a settembre del 2008 siamo a un meno 15, quasi 16%, meno 15,5%, già corretto con gli effetti del calendario, che era un po' diverso. Però siccome continuiamo a dire che l'importante è guardare mese su mese per capire la velocità di uscita da questa crisi, più che tanto ormai lo sappiamo tutti che rispetto a un anno fa il tonfo dell'economia reale manifatturiera è stato pesante, ebbene fa specie che il calo sia particolarmente forte mese su mese. Settembre meno 5% rispetto ad agosto, il dato peggiore dal 1990, quello mese su mese, non anno su anno. E questo lascia appunto spazio ad alcune preoccupazioni. Ecco perché trovo importante anche l'iniziativa che da domani sarà con il Sole 24 Ore in edicola, manuale di navigazione per le piccole imprese, un vero e proprio manuale curato da Lello Naso assieme a Maria Luisa Colledani, con l'intervento di numerosi economisti di impresa, studiosi del sistema produttivo del paese. Lello Naso è nostro ospite oggi, buonasera Lello. Buonasera. Prima di tutto però ricordiamo i dati di questa produzione industriale di settembre, appunto particolarmente brutta nel mese su mese. Doccia fredda sull'industria italiana, che dopo la ripresa abbozzata tra luglio e agosto vede nuovamente cadere in settembre il livello della produzione. Il meno 5,3% rispetto al mese prima rappresenta il peggior risultato da quasi 20 anni. A cedere è stata la produzione dei tradizionali punti di forza del Made in Italy, a cominciare dalla meccanica, che ha accusato un meno 10% rispetto ad agosto. In difficoltà anche l'auto e i mezzi di trasporto, con una produzione scesa del 9,5% in un solo mese. Appena meglio il tessile e abbigliamento, che ha archiviato settembre con un meno 9,3%. Hanno invece in qualche modo ottenuto la chimica, meno 2%, e l'elettronica, in calo dello 0,2%. In uno scenario poco incoraggiante c'è però anche qualche nota positiva, come la forte crescita delle produzioni farmaceutiche, più 6,7% tra agosto e settembre, e il lieve progresso dell'industria alimentare, che ha registrato un più 0,6%, sempre su base mensile. Dovrebbe andare un poco meglio con il dato di ottobre, mese in cui il centro studi di Confindustria si attende un recupero dello 0,3% rispetto a settembre. Sempre Viale dell'Astronomia fa notare come il livello della produzione rimanga del 22% al di sotto del picco pre-crisi e del 3,6% al di sopra del minimo toccato nel marzo scorso. Vabbè, insomma, avremmo preferito commentare un'altra produzione industriale, chiaramente, ma poi questo va anche detto, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Quando poi sentiamo i piccoli imprenditori, i rappresentanti di Confindustria e della piccola industria lamentarsi della situazione difficile, poi capiamo che non sono solo piagnistei o pianti così greci, ed è inutile continuare delle volte a dire che tutto va bene, perché insomma adesso con questi numeri si capisce che la lentezza del recupero sarà alta, e soprattutto per alcuni settori industriali. Se facciamo meno 5% di PIL quest'anno e il prossimo anno facciamo più 0,8, ci mettiamo 5-6 anni a tornare ai livelli del 2008. Certo, il tessile abbigliamento fa un po' meglio, meno 9 invece che meno 10, come la meccanica, che è sicuramente il settore che pesa di più, che sta soffrendo di più, scusate. La chimica tiene, meno 2%, produzione farmaceutica, avete sentito qualcosa si muove, però insomma i settori di forza del Made in Italy sono la meccanica industriale, oltre all'automotive da un lato, e l'abbigliamento e mobilio arredo e le calzature, e lì sono tuttora dolori. Lello Naso, voi in maniera assolutamente provvida siete usciti come Sole 24 Ore con questa manuale di navigazione per le piccole imprese, come si batte la crisi, storie di uomini di aziende italiane, che in qualche modo alterna ricette molto da manuale, proprio consigli pratici, mappe, indicazioni, indirizzi, a analisi anche di economisti come Barbara Navaretti, Aldo Bonomi, insomma un insieme di studiosi, Fabrizio Nida, Guido Tabellini, che sono abituati, Daniele Marini, Marco Fortis, nostri ospiti, tutti questi in molte puntate, che sono abituati a studiare i modelli di impresa. Partiamo dal capitolo primo, il credito difficile. Credito difficile. Allora, il libro vuole dare agli imprenditori un vero e proprio manuale, istruzioni d'uso. Siamo andati regione per regione a vedere quali sono gli incentivi concessi in maniera specifica alle piccole e medie imprese, e ne abbiamo fatto una mappa di pronto uso. Raccontiamo cosa si deve fare in Emilia Romagna piuttosto che in Liguria, nelle Marche, per accedere agli incentivi e quali sono gli incentivi specifici previsti. Per esempio, Emilia Romagna, bando per le piccole imprese a sostegno dell'innovazione organizzativa, sono disponibili oltre 30 milioni di euro. E raccontiamo come si vanno a pescare questi soldi. Teniamo presente che per le piccole e medie imprese sono disponibili 7 miliardi di euro di finanziamenti complessivi che sono a disposizione, e bisogna andarli a prendere. La burocrazia non è semplice, indichiamo come si va a prendere questi denari. E anche come diciamo, non dico bypassare, ma affrontare il tema burocratico, perché non è poca cosa. Però è importante ricordare che delle volte i soldi ci sono, o comunque non ci sono a sufficienza, ma ci sono più di quanto uno non creda. Semplicemente non si sa dove andare, non si sa quale pratica svolgere, non si sa in alcuni casi nemmeno che ci sono i fondi lì. Per cui occorre anche muoversi vista la difficoltà della situazione. Mi sembra di capire già dalla tua impostazione perché l'abbiate chiamato un manuale, cioè non è un saggio, un'analisi, già ne siamo pieni. Detto proprio tra noi, sui motivi della crisi, le strategie, grandi cose così da consulenti, ma è proprio un manuale, gli indirizzi, cosa fare, che pratiche svolgere, dove andare a cercare anche un'assistenza legale e burocratica per il credito, immaginando che appunto non ci si possa basare solo sulle banche, ci sono anche altre forme di finanziamento. La seconda parte, i prodotti, quindi diciamo che cosa utilizzare, cosa fare per la qualità dei prodotti che vengono venduti. Benissimo, siamo partiti in questo capitolo, ogni capitolo racconta anche delle storie di impresa, siamo andati, i nostri inviati sono andati a visitare le imprese, hanno parlato dei Visu con gli imprenditori e si sono fatti raccontare che cosa fanno loro nello specifico, quali sono le difficoltà che incontrano. Qual è il prodotto? Il nodo essenziale, come vincere la concorrenza? Migliorando la qualità del prodotto. Come si migliora la qualità del prodotto? Si migliora con la ricerca e lo sviluppo. Indichiamo in questo capitolo quali sono i centri d'eccellenza in Italia, presso l'università e i centri di eccellenza di ricerca autonomi, che sono a disposizione delle imprese. Delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese hanno degli interlocutori sul territorio con cui possono andare a parlare, possono raccontare quali sono i problemi di sviluppo dei loro prodotti e possono trovare delle sponde per il miglioramento del prodotto, che è la cosa che a livello di competizione riesce a dare un valore aggiunto alle imprese. Anche qui, manuale, quindi l'indicazione concreta, indirizzo, email, specialità, punti d'eccellenza, perché sappiamo che mentre sulle grandi imprese, le medie grandi, spesso la ricerca si fa in casa, il problema delle piccole imprese è non avere massa critica per avere una ricerca fatta di un certo tipo dentro l'azienda. E allora perché non utilizzare quanto offre il territorio, quanto offre comunque il paese, andare a rivolgersi a centri come le università, il CNR e altri centri di ricerca per sviluppare congiuntamente i, i prodotti, anche qui ripeto, mappe, indicazioni, indirizzi a seconda del settore di attività, sì. Settore merceologico. Teniamo anche conto che, sfatiamo un pregiudizio, i centri d'eccellenza sono ovunque in Italia, sì, è vero. Bisogna andarli a cercare. Sono a Lecce, come sono a Napoli, come sono in Sicilia, come sono a Torino al Politecnico, a Milano. Non ci sono aree del paese in cui non si possa andare a parlare con dei ricercatori e ad applicare quello che loro nel laboratorio sperimentano sui prodotti della piccola e anche della piccolissima azienda. Questo è importante. Ancora, andiamo rapidi. Il ricerca e innovazione, abbiamo visto che cosa significhi anche come guida nel mercato globale. Vedo alcuni messaggi che dicono, ma insomma, non avete capito che il vero problema è la concorrenza che arriva dalla Cina e la concorrenza sleale dei paesi dell'est che sta mettendo in ginocchio l'impresa italiana. Bah, allora, devo dire che prima che questa crisi creata dai geni della finanza di Wall Street, e non solo di Wall Street, anche della City, di Piazza Affari, colpisse in maniera così brutale l'economia mondiale, noi nel 2008, fino a metà del 2008 e anche nel 2007, avevamo dei tassi di crescita sull'export bellissimi, secondi solo la Germania. Stavamo riconquistando quella che è la quota del Made in Italy a livello mondiale, che era scesa al 3,2, stava del per cento sul totale delle merci prodotti, stava risalendo. Per cui non è vero che la Cina non fosse stata affrontata con un salto di fascia, gamma più alta, meno concorrenza sulle tomaie e più sulle scarpe di lusso, ma insomma ce l'avevamo fatto, comunque l'impostazione era giusta, lo dimostravano i dati. Poi è arrivata sta gelata. Che cosa suggerite sul fronte concorrenza sleale, opportunità di crescita? A me piace raccontare di questo capitolo del libro una storia di impresa che è un po' esemplificativa. Vincere con l'eccellenza. Come si vince con l'eccellenza? Andando a cercarsi sul territorio italiano quelle reti d'eccellenza che esistono. Questa azienda, che è un'azienda meccanica, si chiama Pama. Invece di andare a delocalizzare in Romania o nei paesi dell'est in generale, ha scelto di andare a Brescia a delocalizzare, un'azienda di Rovereto, provincia di Trento, che dovendo fare un prodotto che va a confrontarsi sul piano della qualità, dell'eccellenza, della sofisticazione sui mercati internazionali e così batte la concorrenza internazionale, è andata a cercarsi un territorio dove esistono dirigenti, tecnici, manovalanza, maestranze, centri di ricerca che aiutano a migliorare il prodotto. Chi mette le mani sulle fresatrici che fa la Pama fa delle fresatrici d'eccellenza. Le fresatrici della Pama vanno sul mercato e sul mercato vincono la concorrenza delle fresatrici di bassissima qualità che vengono da tutto il mondo. Questa dimostrazione che si può delocalizzare, mettiamola così, anche sul territorio e non solo all'estero e non solo all'est, dipende da quello di cui ha bisogno, diciamolo chiaramente, non demonizziamo neanche chi va in Romania o chi va in Cina, ha ottimi motivi spesso per farlo. L'importante è che poi la testa resti in Italia, non mettiamoci sempre in concorrenza con la manodopera del mondiale, cioè la manovalanza mondiale. Ancora, ultimo punto, e qui la nota è dolente, per quello che riguarda il peso del fisco e i vincoli della burocrazia, lo stato distante. Ecco, lo stato distante sono la gran parte delle sollecitazioni che riceve la redazione del Sole 24 Ore, e immagino anche la tua trasmissione, è quella della burocrazia, vincoli, vabbè, paletti. Ogni volta che si deve ampliare un capannone, aprire un'azienda, fare un nuovo prodotto, passano 6 mesi prima di poter spostare un mobile. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo catalogato, classificato tutti gli incentivi che sono disponibili a livello normativo e a livello finanziario, li abbiamo classificati per tipologia e per tipo di azienda che può ricorrere a questo incentivo. Così, bonus ricapitalizzazioni, a chi è rivolto? Alle società di capitali e di persone. Cosa prevedono le misure? Quali sono i vincoli? Qual è il voto che noi assegniamo? E chi può ricorrere e chi è meglio che vada a rivolgersi su un altro tipo di agevolazione? Abbiamo classificato tutti gli 10 principali misure per le imprese e suggeriamo ad ogni tipo di piccola e media impresa qual è la misura a cui è meglio che si rivolga? Anche qui, per categorie produttive, per settori di appartenenza, resta lo spirito del manuale, appunto, non è un saggio, non è un libro da leggersi così, solo per avere analisi e acculturarsi, è un manuale guida per avere le informazioni concrete, gli indirizzi, i punti di riferimento. Si chiama Manuale di navigazione per le piccole imprese, come si combatte la crisi, storie di uomini e di aziende italiane, appunto da domani con il Sole 24 Ore, quindi facciamo anche un po' di promozione, grazie a Lello Naso. Devo dare qualche risposta però ai molti sms che sono arrivati al 349-238-6666 sul tema della produzione industriale, un dato bruttissimo mese su mese, settembre su agosto, mai così male dal 1990, e comunque meno 16% rispetto al settembre 2008, ma è il dato congiunturale, come si chiama in gergo, il mese su mese, quello a preoccupare di più, perché segnala una frenata in un periodo in cui si dovrebbe invece iniziare un po' a accelerare o comunque a riprendere un po' di velocità. Allora, nessuno ha detto che l'Italia se la possa cavare con le produzioni di nicchia, fermo restando che attenzione a cosa si intende per la nicchia, perché si rischia poi così di fare ragionamenti da nicchioni. La nicchia è un mercato come quello cinese in cui si prevedono 250 milioni di nuovi ricchi nell'arco dei prossimi anni. Allora, se quella è una nicchia, capirai, vale per le scarpe, per il Made in Italy, per l'arredamento, per il regno, per il mobilio, insomma, attenzione. Uno, due, avete ragione nel dire che tanto molte imprese italiane vanno a produrre o fare la produzione di base in Cina e comunque la concorrenza cinese è fortissima. Dopodiché che si fa? Cioè, le barriere non le puoi alzare, i dazi abbiamo capito che funzionano solo in alcuni casi in cui viene dimostrato un atteggiamento di dumping, cioè di vendita sotto il prezzo del costo, bisogna reagire. E ripeto, il sistema produttivo italiano nel 2006-2007 e anche prima parte del 2008 tanto bene aveva reagito riposizionandosi sui mercati che era tornato a crescere moltissimo l'export e complessivamente anche la quota di Made in Italy a livello mondiale. Adesso però la borsa. Ancora con la nicchia, vabbè, ma nessuno sta dicendo che la produzione italiana possa andare avanti con solo con le produzioni di nicchia. La borsa ha fatto meno 0,2%, intesa miglior titolo più 1,5%, il peggior titolo oggi, da lì partiamo, Prysmian meno 8,2%, le altre borse poco mosse, anzi per nulla mosse, a Parigi e Francoforte e Londra e l'America sono tutte ferme, hanno chiuso invariate o sono ferme, e anche Milano ha perso poca cosa, meno 0,2 appunto. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Prysmian. Sì, Prysmian è stata in coda al listino fin dall'avvio della seduta. Il titolo ha risentito prima dell'annuncio e poi della notizia che l'azionista di riferimento Goldman Sachs ha venduto oltre il 14% del capitale della società attraverso una procedura di raccolta accelerata delle adesioni rivolta agli investitori istituzionali che era stata appunto annunciata ieri a mercato chiuso. Goldman, che era azionista prima di questa operazione, azionista di riferimento con il 31,7%, rimane quindi con circa il 16% su cui ha siglato un accordo di lock-up da 60 giorni, al termine dei quali ovviamente il mercato inizia a pensare che possa ulteriormente ridurre la propria partecipazione nella società. Questo su Prysmian, Geox meno 4,80, Pirelli meno 3, Steamectronics meno 2,5, Impregilo meno 2,3, Finmeccanica meno 2,1 come Mondadori, L'Automatica meno 1,7 come la Pop Milano e Buzzi Unicem, 1,5% ha perso Telecom Italia e anche Ansaldo STS, l'1,3% il calo di Autogrill e delle Campari e anche di Fondiaria Eni ha perso l'1%. Chi ha guadagnato? Beh, Intesa, allora parleremo dei conti di Intesa San Paolo nella seconda ora del programma, quindi, e delle banche in generale, però Intesa più 1,5% chiaramente paga l'andamento dell'utile e dei conti del gruppo, A2A più 1,5, Enel più 1,2 come Bulgari, l'1,1 è Parmalat, è rialzo di Parmalat, l'1% quello di Snam, Rete Gas e del Banco Popolare, ma anche di Terna, anch'essa dopo i conti che abbiamo ricordato. A2A. Sì. sì, per quanto riguarda A2R è stata una seduta positiva innanzitutto sulla scia del comparto utility che è andato bene in tutta Europa e ha chiuso nel razzo di mezzo punto. Per quanto riguarda A2A inoltre c'è l'attesa per i conti che saranno comunicati giovedì e inoltre il mercato si aspetta la vendita della cessione del 5,1% detenuto dalla società nell'utility svizzera al PIC, è una vendita annunciata da tempo che però secondo alcune indiscrezioni potrebbe subire un'accelerazione ad essere conclusa entro la chiusura dell'esercizio o almeno l'approvazione dei conti sull'esercizio in modo da consentire alla società di distribuire un dividendo che al momento secondo alcuni analisti è un po' a rischio. Allora, Tern, abbiamo detto sui conti, Geox, volete sapere? Beh, anche Geox ha diffuso i conti abbastanza negativi, l'utile netto meno 33%, i ricavi meno 2%, l'utile netto essere sceso a 90 milioni di euro, avere male orientato il mercato. L'altra notizia di cui parleremo nella seconda ora riguarda il risanamento, cioè l'accordo, il via libera del Tribunale al piano di risanamento. E quindi il piano bancario, il titolo mi sembra che per essere così modesti ne abbia risentito in maniera positiva. Sì, è stato il migliore dell'intero listino, ha chiuso in rialzo del 15,7% a 0,538 euro. Eh sì, migliore in assoluto, peggiore in assoluto è Prismian, proprio per il motivo che abbiamo ricordato, la quota del 14% venduta da Goldman Sachs e l'ipotesi che possa non essere l'ultima cessione. Grazie a Paolo Paronetta, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, i dati in dettaglio li esaminiamo con il direttore finanziario di Vodafone Italia, Emanuele Turnon. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, primo semestre si diceva dell'esercizio fiscale, utile netto che è salito da 2,38 miliardi di euro a praticamente 5,36 miliardi di euro. Sto facendo i calcoli in euro perché voi l'avete diffuso in sterline. E già questo è sicuramente un dato di rilievo. Poi il margine operativo lordo è cresciuto di quasi 3% a anche qui 8 miliardi e 300 milioni di euro, ricavi in aumento. Un primo commento, anche perché si temeva che anche il settore delle telecomunicazioni subisse un anno difficile. Sì, sono risultati di gruppo, del gruppo Vodafone, quelli che lei ha citato, certo, sicuramente positivi, a cui Vodafone Italia ha dato un contributo importante. I risultati del primo semestre di Vodafone Italia sono confermati senz'altro positivi, con ricavi in crescita, una crescita importante del 2,3%, soprattutto se si considera il contesto macroeconomico in cui abbiamo operato, ricavi che sfiorano i 4,3 miliardi di euro. Una crescita ancora più importante c'è stata per quanto riguarda l'EBITDA, che cresce del 4,5%. E supera i 2,1 miliardi di euro. Ecco, volevo fare una nota relativa alla dinamica positiva dei ricavi, che deriva in modo particolare dalla forte crescita dei nostri servizi da banda larga mobile e da servizi multimediali, in particolare il mobile internet, che registrano una crescita superiore al 21%. C'è anche da sottolineare l'ottima performance dei ricavi da servizi da rete fissa, che hanno raggiunto circa 380 milioni di euro, anche qui con una crescita molto importante pari al 22%. Una crescita che deriva soprattutto dall'ottimo successo dei servizi di banda larga fissa, sia di Vodafone che di Tele2, che ci hanno permesso di arrivare a 1,1 milioni di clienti ADSL, con un incremento del 67% rispetto al primo semestre dell'anno scorso, per cui una crescita molto importante. Allora, mi sembra di capire, per quel poco che ci capisco, che nel caso di Vodafone Italia, ma immagino anche di Vodafone a livello di gruppo, il vero apporto a questi numeri, quindi ricavi in crescita, sia arrivato da quelli che voi chiamate i servizi aggiuntivi, cioè non la semplice telefonata nell'SMS, ma tutti i servizi aggiuntivi che possono essere veicolati da una rete più potente. Lei citava appunto la banda larga, la DSL, perché 1.100.000 clienti non è poca cosa. E poi, se ho ben capito, la banda larga vi ha fatto aumentare i ricavi sia sul fronte del telefono mobile che del telefono fisso. Questo, diciamo, è una tendenza complessiva del settore delle telecomunicazioni, perché, ripeto, si poteva temere che all'interno di una crisi che sta colpendo le famiglie soffrissero anche i gruppi che offrono servizi di telecomunicazione, maggior ragione quando sono servizi aggiuntivi. Ma senz'altro direi che viviamo tutti quanti, tutti i settori, un clima di incertezza. Le tempistiche della ripresa sono incerte, sono aleatorie, anche se devo dire si registrano segnali positivi. Uno di questi è senz'altro il recupero dell'indice di fiducia dei consumatori, che negli ultimi mesi è in qualche modo in recupero. Per quanto riguarda il nostro settore, anche noi abbiamo risentito di questo contesto, però probabilmente in una misura più contenuta rispetto a quella di altri settori che sono stati più immediatamente colpiti dalla recessione. Certo alcuni servizi mobili tipo il roaming o servizi più discrezionali sono anch'essi esposti al clima di recessione, però devo dire che la domanda di servizi di comunicazione di base, e tra questi cito quelli che lei ha giustamente indicato come l'accesso a internet, che è diventato un sistema di comunicare, mi faccia dire, di base, assolutamente diciamo diffuso tra la gente, ebbene questi servizi sono una parte fondamentale della vita quotidiana delle persone e io penso che come tale hanno un livello di resistenza, di domanda probabilmente maggiori di quelli mostrati ad altri settori rispetto a fenomeni recessivi. Quindi quasi anticiclici, si direbbe con un altro gergo, cioè non si taglia su altre spese, però il telefono e l'accesso a internet sono considerati quasi bisogni primari. Devo dire che molte tariffe vanno anche in questo senso. Un'ultima domanda riguarda la banda larga, perché insomma, è un tema di attualità, noi è giorni che ce ne occupiamo dopo il blocco del finanziamento da 800 milioni di euro per il digital divide, per la parte che competeva allo Stato di andare a connettere perlomeno con 2 megabit, ma in generale con 20 megabit tutto il paese, e eliminare questa differenza tra aree del paese che sono già in banda larga, quindi internet veloce, e aree del paese in cui si lavora ancora come 10 anni fa. Voi, se ho ben capito, dite vabbè, è ora di investire insieme nella rete del futuro. Insieme con chi? Con gli altri grossi vostri competitor, Telecom Italia in primis, o insieme allo Stato? Ma dunque, innanzitutto c'è da chiarire che gli 800 milioni a cui lei ha fatto riferimento sono molto importanti, soprattutto in chiave di riduzione del cosiddetto digital divide, cioè permettere ad una parte della popolazione che oggi non ha accesso alla rete effettivamente di avere questo accesso. Però questo è una parte di un problema più ampio, il problema più ampio si chiama rete di nuova generazione. E noi siamo senz'altro a favore e spingiamo per dar vita e anche partecipare, evidentemente dando il nostro contributo, alla società della rete, cioè un modello aperto agli altri operatori, ma evidentemente anche un modello aperto anche a finanziamenti pubblici per la costruzione della rete di nuova generazione, una rete che possa in qualche modo, un modello che possa mettere a fattor comune le competenze, le risorse umane, tecnologiche, finanziarie che sono assolutamente necessarie per sviluppare gli investimenti e anche per garantire un aspetto competitivo a tutti gli attori di questo settore, a tutti gli attori coinvolti. Grazie e in bocca al lupo anche a voi come a tutti i gruppi che intervistiamo. Grazie al direttore finanziario di Vodafone Italia, Emanuele Turnon. Grazie a lei. Continuano ad arrivare molti sms sul tema della produzione industriale. Ripeto, attenzione, il dato è ancora relativo solo a settembre, però oggettivamente è importante che, importante in senso negativo, che la frenata sia stata molto forte il mese su mese, il meno 5%, che è il peggior dato dal 1990, rispetto a un andamento un po' migliore ad agosto. È chiaro che pesa e preoccupa di più questo meno 5% ad agosto nella produzione industriale rispetto a settembre rispetto ad agosto, che non il meno 15,7 di settembre 2009 su settembre 2008. I settori, non possiamo, abbiamo dedicato a questo l'apertura del programma, non possiamo ricordarli tutti brevemente. Particolarmente male la meccanica, meno 10% rispetto ad agosto, quindi settembre su agosto. I mezzi di trasporto meno 9,5%, il tessile meno 9%, ha tenuto di più la chimica. Preoccupazione per l'andamento dell'anno è stata espressa oggi anche da Guido Alberto Guidi, in quanto presidente di ECMA, all'apertura oggi del Salone del Ciclo e Motociclo, perché sul mercato delle due ruote il 2009 si chiuderà con un calo del fatturato del 5% dopo un inizio d'anno drammatico, quindi un recupero c'è stato, perché lo stesso Guido Alberto Guidi ha ricordato come all'inizio anno, nei primi mesi, il calo fosse del meno 30%, meno 40%. All'inizio anno è stato drammatico, meno 30, meno 50% a seconda dei settori e delle tipologie di prodotto. Poi sono entrati in gioco gli incentivi, soprattutto quelli che ho firmato col Ministero dello Sviluppo Economico e hanno fatto riprendere il mercato. Direi che abbiamo limitato le perdite, ecco, quindi globalmente chiuderemo con un meno 5 circa. Previsioni per il 2010? Dovremo continuare a richiedere al governo gli incentivi e poi ci auguriamo di fare ponte con una situazione normalizzata. Per quanto riguarda i 50 centimetri cubici, 400 è stato un riscontro immediato. Appena sono entrati in funzione è ripreso il mercato. Naturalmente teniamo conto che, sapendo che sarebbero usciti, molti hanno posticipato l'acquisto, quindi c'è stato anche un effetto moltiplicatore. Dobbiamo continuare ad averli anche quest'anno per il settore. E quindi questa è la fotografia della cosiddetta economia reale, dell'industria manifatturiera, come si chiama in gergo, a fronte, e anche qui voglio essere chiaro, siamo tutti contenti che i gruppi bancari americani, europei, in questo caso anche italiani, abbiano ripreso e siano tornati in utile. Nessuno vuole e si può auspicare delle banche deboli in difficoltà. Certo è che insomma la differenza, la discrasia, direbbe chi ha studiato, tra le due cose è abbastanza palese. Perché? Perché Intesa San Paolo, che ha pubblicato i dati, lo dico a chi scrive, Unicredito deve ancora uscire con le trimestrali, però insomma non dovrebbero esserci dati molto diversi, ha visto, per carità, calare l'utile a 2 miliardi 260 milioni rispetto ai 3 miliardi e 780 dei primi 9 mesi del 2008, però è salito molto l'utile nel terzo trimestre, cioè ha fatto 670 milioni contro i 500 del secondo trimestre. E soprattutto arrivano utili, cioè guadagni dall'attività di trading, cioè dalla compra e vendita sui mercati azionari, ma non solo, pari a 447 milioni, risultato positivo, in aumento rispetto anche al trimestre precedente. E ancora, il risultato netto del trading di prodotti strutturati è salito da 4 a 39 milioni, e quello del trading, della compra e vendita di titoli sul mercato dei capitali, sugli asset finanziari, è salito da 167 a 205 milioni, tant'è che il gruppo vede inutile l'intero 2009. Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Il nostro ospite già altre volte, cerchiamo di tenere assieme finanza ed economia reale, poi passeremo anche più in breve alla vicenda risanamento. Allora, la domanda che arriva è: benissimo che gli utili, che le banche facciano utili, non si sta generando un effetto, tra virgolette, bolla tra un'economia che comunque stenta a ripartire in maniera strutturata e una borsa che fa un più 20% all'inizio anno, le banche che già tornano a fare utile? Ma non credo che si possa parlare di una bolla in questo momento fra economia e finanza, ma più che altro possiamo parlare di una borsa che ha già anticipato questi bilanci, perché la corsa dei titoli bancari e finanziari è cominciata già da marzo del 2009, quindi da molti mesi, e il mercato anticipa sempre quelle che sono i risultati, quindi abbiamo visto i titoli che sono saliti un po' sulla base di queste attese, e non è un caso infatti che si dice che dopo questa stagione di trimestrali delle banche potrebbero esserci dei realizzi di profitto molto forti sui titoli bancari e finanziari. Ma il quadro un po' che emerge adesso dal bilancio di Intesa, ricordiamo che Banca Intesa San Paolo è una banca che ha una centralità molto importante nel sistema produttivo italiano, è una delle banche più radicate nel territorio e soprattutto nel sistema produttivo italiano, e non è un caso che i risultati che sono stati annunciati oggi riflettano un po' questa posizione, perché se da un lato, come giustamente dicevi tu, le attività di corporate, cioè di finanza d'impresa ma grande impresa, e investment banking, quindi tutta l'attività di consulenza e di advisory per fusioni, acquisizioni e emissioni di varia natura, è stata la divisione che ha registrato sicuramente la crescita più alta, addirittura vedevo sulla base dei 9 mesi più 70,5%, a fronte di che cosa? Di un indebolimento ulteriore della banca dei territori. Per chi appunto non fosse familiare con le denominazioni di Banca Intesa, la banca dei territori e tutta la divisione retail, cioè gli sportelli. Lì in quell'area c'è anche il credito alle piccole e medie imprese, questo bisogna tenerlo presente, perché quando si parla di banca dei territori si pensa che solo le famiglie, no, anche la piccola impresa artigiana o industriale si rivolge a quegli sportelli per il proprio credito, e lì la flessione è stata del 34,7%. Allora, qui senza nessuna polemica lo dico, perché già molte volte abbiamo parlato, però questi sono dati di bilancio alla mano, meno 34% l'attività di credito nel territorio, che vuol dire appunto famiglie. Utili, non l'attività di credito, eh? I risultati per sì. Cui su quello c'è stata comunque una contrazione, e invece tutti i guadagni, diciamolo in maniera un po' imprecisa, ma tutti i guadagni sono arrivati dalla parte di trading, dalla parte di investimento. Dalla parte di finanza. Di finanza. In senso anche lato. Devo dire che se uno va a vedere, mutatis mutandis, il bilancio di Goldman Sachs, non è che le cose siano molto diverse. Anche lì la maggior parte degli utili di Goldman Sachs arrivarono da attività di finanza, non di prestito alle imprese manifatturiere. Fermo restando che Goldman Sachs questo fa nella vita e non ha la banca del territorio, perlomeno. Bisogna inquadrarlo per far capire bene ai nostri ascoltatori. Il problema non è tanto dove vengono fatti gli utili, ma la velocità con cui si sta riprendendo il mercato dei capitali, perché oggi ci sono due andamenti diversi. Uno è quello dell'economia, che dicevamo che è lenta, che è ancora in crisi, si parla ancora di exit strategy, il che vuol dire che non siamo fuori se si parla certo. Di exit strategy. Dall'altra parte c'è invece una grandissima liquidità che è presente nei mercati per le iniezioni che sono state fatte dalle banche centrali, di cui le banche stanno beneficiando, e non a caso, come dicevi tu, appunto, prodotti strutturati, derivati e anche prodotti rischiosi sono quelli che hanno ritrovato della liquidità. Questo è importante perché sta rafforzando le banche in questo momento, e avere banche forti è l'interesse di tutti, non banche deboli. Siamo d'accordo. E dall'altra parte però abbiamo certo, un'economia si potrebbe forte. Chiedere anche che i vasi comunicanti comunicassero un po' di più, cioè se tu grazie al salvataggio delle banche centrali dei vari paesi nazionali adesso hai tassi a zero, liquidità fortissima, mercato di capitali che riparte con gli stessi prodotti che o quasi gli stessi che un anno fa misero in ginocchio il sistema finanziario, beh, almeno io ti potrei chiedere certo. Per favore trasferisci qualcosa sull'economia reale, allenta un po' il credito alle piccole imprese, perché sennò non puoi prima aver creato un problema e certamente poi la grande questione proprio lì, la grande questione è come rimettere in moto una macchina che era quella del credito all'impresa, che si è indubbiamente arrestata, vuoi per la caduta della domanda di credito, vuoi molto perché effettivamente le banche in questo punto stanno facendo pagare caro alle imprese la rischiosità della loro attività. Ecco, rischiosità e rischi che si erano volontariamente accollate fino a un anno fa, per questo è la cosa un po' più spiacevole. Allora, vediamo di chiarire un concetto. Non c'è nulla di male, anzi, che una banca abbia utili e guadagni dall'attività di trading. Fa anche questo un gruppo come Intesa, San Paolo, ma come altri gruppi. Il punto è che non può fare solo questo, diciamo, è un po' più strano che l'unico utile arrivi solo da lì, ma non c'è nulla di male. Lo dico a chi scrive, ecco, stanno tornando con i vecchi vizi. Non erano solo vizi, era un'attività finanziaria normale. Il problema è appunto che tutti i soldi spesi dai governi e dalle banche centrali o messi a disposizione servivano anche per sostenere la finanza e il sistema bancario, ma anche per far ripartire l'economia reale. Nel frattempo è uscito l'utile netto di BPM più 27,5%, bene quindi anche la Popolare di Milano, a 182 milioni di euro, leggo il flash assieme a voi, e una dichiarazione di Corrado Passera, il numero uno del gruppo Intesa San Paolo, che ha detto: non vedo alcun segnale di ripresa, immagino ripresa dell'economia reale, visto che invece la situazione di Banca Intesa si sta riprendendo e bene. Da questo punto di vista, Alessandro Praterotti, noi ci attendiamo che anche Unicredit possa avere una trimestrale di questo tipo. Secondo te, quando è che a un certo momento i grandi gruppi bancari potranno riprendere un'attività più forte sul territorio, la banca del territorio, o dovrà esserci un'iniziativa politica, perché lì torniamo anche allo scontro tra Tremonti e i banchieri italiani sul mancato utilizzo dei Tremonti Bond? Boh, certamente le iniziative politiche tese a rafforzare il legame fra banche e imprese sono sempre benvenute, e tutto sommato anche l'accordo che ha fatto la Confindustria con l'ABI sulla moratoria dei debiti delle imprese si muoveva nella giusta direzione. Ora i risultati non sono forse quelli che ci si aspettava e quelli che si auspicavano, però insomma vediamo se poi di qui alla fine dell'anno si riesce ad avere delle cose migliori. Il problema vero oggi non è tanto costringere le imprese, le banche a dare soldi all'impresa, perché oggettivamente sono istituzioni private con dei consigli di amministrazione e delle assemblee che poi dovranno rispondere a loro. A mio avviso la cosa più importante è vigilare che le banche utilizzino adesso questa ripresa dei profitti e delle loro attività per rafforzarsi patrimonialmente, cioè per rafforzare tutto l'insieme della struttura finanziaria in modo tale che si evitino in futuro quei rischi di dover far intervenire lo Stato, i salvataggi, la paura, la gente che va davanti alla banca, quasi come io ricordo 2 anni fa, quando insomma c'è il momento peggiore della crisi, la gente andava in banca con la paura quasi che fallisse, cosa assurda. Ecco, questo è il problema. Non dobbiamo preoccuparci tanto del dire ritorniamo ai vecchi sistemi. Non dobbiamo ritornare ai vecchi sistemi per cui le banche danno per scontato che certe attività, prodotti che hanno in portafogli debbano per forza crescere, cosa invece abbiamo scoperto e si sono svalutati, hanno perso tutto il valore costringendo poi alle ricapitalizzazioni. E devo dire quindi che meno dividendi, forse, più rafforzamento patrimoniale.